sono numerosi, si permettono di mettersi tutti intorno al tavolo. Questo qui voi non avete, no? Dovrei fare un controllo. Invece dobbiamo vedere se mi fa. Posso utilizzarlo come controllo? No, va bene. Ecco, allora cominciamo la seconda fase dei lavori. Spero che non siate troppo stanchi della strada, che i miei 500 metri effettivamente non corrispondevano in nessun modo alla verità storica. Ma insomma. Ma penso che sia opportuno, siccome l'argomento è così vasto, che ad un dato momento sospenda e consenta quindi la possibilità chiunque di fare dei rilievi, va bene, perché so che alcuni prima delle 5 devono andarsene via e quindi eventuali aggiunte le faccio in secondo momento, tanto più che queste eventuali aggiunte riguardano nuovi documenti totalmente padovani che illustrano la vita, l'attività di Weismayr sia a Padova, sia a Venezia, sia in relazione con gli esuli toscani. E quindi lato, va bene, è storia locale, diciamo così, in quanto viene acquistato un potere sui fogli euranei di amministra, anche questo forse è indice di un certo suo attaccamento, no, al mondo contadino. E poi danno notizie interessanti anche queste sulla sua famiglia, che fino a questo momento si sapeva che aveva un figlio detto Michele Junior, invece qui nei documenti è detto Michele Marco, ma sono elencate anche le figlie, una si chiama Anna, una Margherita, una Rosina, anche i nomi, va bene, risentono dell'influenza veneta, nati appunto a Padova, queste ultime. Dopo il saccheggio del convento di Novacella, vi fu soltanto un'azione isolata e senza seguito la mattina seguente. Domenica 14 maggio 1525, Mates o Mateus Postner, con 8 compagni più esaltati, saccheggiò il palazzo vescovile abbandonato dai custodi e dalle guardie del principe vescovo. Mentre dividevano il bottino, giunse un messo del Weismayr che invitava i componenti della giunta rivoluzionaria a Novacella a una riunione. Il Postner disse ai suoi 8 compagni: rimanete qui, a tutto dire il bottino, che io voglio sistemare l'elezione già fatta. Espressioni queste equivoche, ma piuttosto minacciose, contro chi intendesse, come il Weismayr, seguire una linea d'azione diversa da quella fanatica e impulsiva dei compagni del Postner, che difatti subito dopo diffondono la notizia che si intendeva continuare i saccheggi. Ma le intenzioni e le idee di Michele Geismayer erano invece ben diverse. Egli attese subito a ristabilire l'ordine pubblico e ad isolare, diciamo così, i facinorosi, allontanandoli dalla città e senz'altro congedandoli, come dice poi nella lettera mandata successivamente al vescovo principe di Brezzanone, che come consigliere aulico era e si tratteneva a Innsbruck. Il Geismayer attendeva a costituire una nuova, più efficiente e autorevole giunta rivoluzionaria, che avesse l'appoggio e rappresentasse effettivamente tutte le giudicature trentino-tirolesi, per poter poi trattare quel principe da una posizione, diciamo così, di forza. Linea questa strategica che perseguì finché gli fu possibile, fino a quando cioè non perse ogni fiducia nella lealtà del giovane principe Ferdinando d'Asburgo. Ferdinando d'Asburgo non conosceva il tedesco, perché era giovane, va bene, di 22 anni, si esprimeva in spagnolo o in francese, quindi giovane, inesperto, ma nello stesso tempo molto cauto, dava talvolta a ben sperare, diciamo così, sulle sue intenzioni. Geismayer non amava la violenza e solo quando fu costretto dalla lealtà e dagli inganni dei nemici denunciò la legittimità dello sterminio degli empi. Empi sempre nel significato biblico usato da Zwingli e anche da Lutero, cioè idolatri. Gli empi sono gli idolatri, quelli che si volgono agli idoli o anche a Mammona, e i dissanguatori dei ceti sociali più umili e oppressi, contadini e minatori. L'atteggiamento responsabile del Geismayer è testimoniato non solo dalle sue lettere al principe vescovo e al consiglio aulico di Innsbruck, ma anche dalle testimonianze non equivocabili, perché univoche, che si leggono negli atti dei processi. Quando ad esempio Michele Geismayer, invitato subitolamente a Innsbruck, lasciò le direttive ai suoi uomini più fidati, come il Ganner, disse testualmente: state tranquilli e non fate disordini, perché dobbiamo attendere il momento opportuno. Vi sarà certamente una nuova rivolta a Svazia e in altri luoghi. Io non voglio spargere inutilmente sangue, ma quando saranno finalmente occupati i confini e le fortezze di confine, no? Allora sì, il principe non potrà più opporsi a noi. Quindi il suo obiettivo era di costituire un tale complesso di fatti compiuti che non sarebbe più stato possibile al principe se non riconoscere le richieste presentatesi o andarsene. Nell'archivio di Stato di Bolzano c'è un fascicolo che mi è stato segnalato di nuovo dal signor Summa, che sta concludendo la tesi con me. Vi è un fascicolo di atti della giunta rivoluzionaria di Brezzanone ed è interessante. Ed è interessante un elenco di 17 articoli o richieste che sostanzialmente contengono in nuce i successivi 64 articoli della giunta di Meran. E siccome questi ultimi, secondo le testimonianze contemporanee, e anche poi di colui che capitano all'Adige poté conoscere i documenti dell'archivio, e quindi anche quelli lasciati da Leonard Pompelz, cioè il Brandis, che lasciò all'inizio del 600 tutta la storia appunto dei capitani all'Adige. Come stavo dicendo, questi ultimi sono, con le testimonianze contemporanee, sono stati elaborati su uno specimen fatto dal Geismayr. Non sarebbe infondata la supposizione che i suddetti 17 articoli siano stati spesi dallo stesso Geismayr. Poco fa il dottor Riedemann si faceva presente che il compianto dottor Bitting, nel suo ultimo saggio sulla rivolta contadina del 1525, accenna, ma senza riferimento della fonte archivistica, all'esistenza di una Landesordnung di Michael Geismayr del 1525. Stando a queste cose, noi non sappiamo se effettivamente egli intendesse questo fascicolo o altri. A me non risulta che ci siano altri documenti, va bene. I primi articoli riguardano, li avete anche nella fotocopia che vi è stata consegnata, riguardano è la seconda fotocopia, va bene, di quel fascicolo. I primi articoli riguardano specificamente o più limitatamente la città di Bressanone. Vogliamo un consiglio della città Statrat che deve essere approvato dal principe. Questa, come ho accennato, era una vecchia aspirazione che rimase insoddisfatta fino al 1604 per l'opposizione del capitolo del Duomo, caposaldo fino a quegli anni della nobiltà locale, cioè la nobiltà locale che aveva il monopolio dei canonicati del Duomo, sapete, si opponeva all'istituzione di un consiglio della città che sarebbe stato in mano del ceto borghese. Secondo, deve essere eletto un giudizio come ad Hall, nella valle dell'Inn, dove appunto il giudice veniva eletto dalla cittadinanza, quindi il giudice non deve essere imposto dall'alto, ma deve essere eletto, diciamo così, democraticamente dalla comunità. Terzo, ci deve essere un solo giudice ed un solo diritto valido per tutti, e chi abita a Bressanone deve essere considerato cittadino, cioè senza più la distinzione e discriminazione di Bürger e Inbona. Se voi andate all'archivio del comune di Bressanone, vedete che c'è un codice intitolato appunto Bürger e Inbona, in cui si fa la distinzione tra cittadini di pieno diritto e invece semplicemente, come possiamo dire in italiano, non residenti, abitanti, ma non traduce neanche, ad ogni modo, gente che non aveva la possibilità di possedere alcun immobile e quindi non aveva la possibilità nemmeno di partecipare poi o abbattute di caccia o all'uso delle acque o al taglio della linea. Ad ogni modo erano esclusi da ogni diritto, a maggior ragione erano esclusi poi gli eventuali nulla tenenti che fossero venuti a Zanone. Quindi voi capite che un contadino, cioè, o anche uno del Prestito che fosse andato a Zanone, tanto sarebbe stato diffidato dal signore locale, va bene, ma poi non aveva possibilità di rimanerci e senza dubbio non aveva la possibilità di ottenere la cittadinanza. Quindi niente più distinzione, va bene, tra Bürger e Inwohner, e invece tutti devono essere considerati cittadini. Quarto, deve esserci concesso un mercato settimanale. Mercato, è già stato accennato, va bene, alla difficoltà del mercato, cioè ad esempio a Bolzano soltanto gli abitanti della città avevano la possibilità di commerciare alla mattina. Il mercato era destinato soltanto agli abitanti della città, soltanto questi potevano vendere o acquistare. Nel pomeriggio potevano vendere e acquistare anche, diciamo così, quelli convenuti da fuori città. Poi salto un po' perché ci sono alcune clausole che non riguardano direttamente Bressanone. Ad esempio il 9, nel foglio successivo, si dice che vi deve essere la possibilità per i cittadini, si intende qui di Bressanone, di nominare e anche destituire il parroco di Bressanone. Poi, devono essere abolite tutte le nuove dogane, come quelle di San Lorenzo, adesso torno a, scusate, al foglio precedente, tutte le nuove dogane, come quelle di San Lorenzo di Fusteria, di Rio, lo stesso di Fusteria, di Nove Case, e via di seguito, quelle sulle acque, le acque e via di seguito. Voi capite l'importanza di questo. Geismayr cos'era nella cancelleria del vescovo principe di Bressanone? Di solito viene detto segretario, ma non risulta che mai sia stato tale, tanto più che quando indirizza le sue lettere a vescovo principe e lì le indirizza al suo segretario. Io mi sono chiesto, ma come mai, va bene, tutti ripetono che è stato segretario? Perché nel saluto è detto capitano dei pontieri, dei pontieri. Michele Galma, che è stato già capitano dei pompieri a Bressanone, adesso è venuto da noi, e anzi ecco aggiungo, e va in casa di Doganieri a Padova. Ludovico della Valle, che è anche un personaggio importante nel caso. Secondo me, te l'ho già detto anche in quel rimetto, forse si è letto male la notizia del Brandis, il quale dice che faceva parte della cancelleria del segretario del vescovo, cioè è sì nella cancelleria, ma è addetto, diciamo così, ma non è il segretario. Non so se mi sono spiegato, è detto, è funzionario del segretario o della segreteria, diciamo così, e dopo è passato, è segretario del vescovo. Egli è invece capo doganiere, capo dei pontieri, dei cosiddetti pontieri, in italiano o anche in veneziano, che significa appunto dattieri. E siccome i dattieri erano sui ponti, di solito, nelle vie di comunicazione o ai confini, così può essere spiegato. Ho detto è di notevole interesse questo qui, perché poi viene riportato anche nella Landesordnung. Non ci devono essere più dogane interne, dice, ma soltanto dogane ai confini, e affinché non si mettano delle tasse sui beni importati che devono essere tali e quali poi venduti alla cittadinanza, alla popolazione, bensì le tasse devono essere messe, il peso doganale deve essere piuttosto sulle merci che escono. Devono essere abolite ad ogni modo le dogane interne, diciamo così. È già una premessa a quello che viene detto nella Landesordnung. I rimanenti articoli sono richieste comuni a tutta la popolazione trentino-tirolese e corrispondono agli articoli di Merano. Così l'articolo 5: ci deve essere un solo sistema di pesi e di misure in tutta la provincia. L'articolo 7: tutte le compagnie commerciali e le monete straniere devono essere allontanate dalla provincia, che deve invece battere una sua buona moneta. Anche questo torna sia negli articoli di Merano sia nella Landesordnung. Qui bisognerebbe fare un piccolo, una piccola divagazione, va bene, sulla monetazione dell'epoca. Voi sapete che Venezia nel 1485 aveva coniato la lira d'argento. Siccome il ducato veneziano era più pesante del fiorino, valeva di più. Infatti un fiorino valeva 50 zanziger. Valeva 5 lire, mettiamo, no, 5 lire d'argento, e invece il ducato valeva molto di più, valeva 60, 70, si giunge anche a 80, mettete da 50 a 60 inizialmente, ecco il rapporto. Ma Venezia, coniando la lira d'argento, aveva sconvolto il sistema dei cambi, così che ad un dato momento c'era stata anche una presa di posizione già da parte di Sigismondo, che aveva imprigionato 200 mercanti veneziani, e dopo erano successi appunto dei pasticci. Fatto sia che il rapporto dell'argento e dell'oro non valeva più. Di più, la monetazione qui locale era diventata schindervinge, era diventata molto deprezzata, ed era stata deprezzata specialmente la moneta spicciola, sempre a svantaggio dei ceti meno abbienti, perché la moneta veniva usata anche, diciamo così, secondo una stratificazione sociale. La moneta aurea era la moneta, diciamo così, privilegiata dai nobili. La moneta d'argento era quella del commercio, perché voi sapete che l'argento valeva molto di più in Oriente che non qui in Occidente, e Venezia si guadagnava appunto nel cambio. E la moneta spicciola, invece, quella più utilizzata, era quella di compostello, di commercio. Ecco perché una buona moneta si dice sempre come ai tempi di Sigismondo, perché ai tempi di Sigismondo non c'era stato questo trambusto monetario, questa crisi anche monetaria, anzi appunto in tutte le in tutti i racconti sul Sigismondo si dice sempre qui feci buona moneta, qui feci buona moneta, ed è significativo. Ecco, quindi c'è una nostalgia per quell'epoca quando non c'era stato tutto questo sconvolgimento monetario. Poi il decimo, nessun ecclesiastico deve poter acquistare e in ogni caso non tenere in suo possesso beni immobili. Anche a Venezia era stato fatto qualche cosa di simile, ma già dal 200, riguardava soltanto il ducato, non tanto il dominio. Sapete che il dominio veneto aveva mantenuto una legislazione di tipo feudale, semifeudale, specialmente in alcuni luoghi come il Friuli, ma anche nella Marca Trevigiana. E invece nel Dogado, nella parte più antica di Venezia, lì c'era stata una legislazione che faceva obbligo a chi avesse ottenuto una donazione pia di vendere nel limite massimo di 2 anni. Adesso non dico che questo qua sia di una mutazione veneziana, ad ogni modo c'è qualche collegamento. 11. In caso di cattiva annata, le conseguenze non devono essere sopportate solo dal contadino, che anzi deve essere esentato proporzionalmente dal canone d'affitto. Anche questo torna poi e viene sviluppato molto negli articoli generali. Poi 13. L'acqua e la selvaggina devono essere liberi. Field. 14. Gli affitti devono essere ridotti. 17. Va bene, deve essere abolita la nuova legge penale, malefizia, la libella, e si deve ripristinare quella antica. L'ultimo di questi articoli, ho saltato alcuni, va bene, che riguardano il vino bianco, che riguardano l'olio, il pepe, cioè si dice tutti i canoni che, o i tributi che contemplano delle merci che non si producono sul luogo, non devono più essere, va bene, oggetto di tributo. Tutti i tributi devono essere pagati o in denaro o in merci, va bene, che sono prodotte sul luogo. È un documento questo, dei 17 articoli, senza dubbio moderato nella forma, cosicché paragonato ai propositi massimalisti e tumultuosi dei contadini all'inizio della rivolta, può essere inteso del tutto in chiave moderata, come espressione delle tendenze e delle aspirazioni del ceto borghese di Bressanone, che si sarebbe accontentato di conseguire i privilegi già ottenuti da quello di Bolzano e di Hall mediante la realizzazione tanto agognata del Consiglio della città. In tal modo, anche nel movimento bressanonese, fin dall'inizio vi sarebbero due anime, quella radicale contadina, o come dice Hoffner, va bene, Solloite, o dei piccoli contadini, quella radicale contadina collegata a quello che il Maastricht chiama con linguaggio marxista il proletariato cittadino, e quella invece riformista, borghese, che giustifica poi il suo comportamento ripetendo in sua difesa: noi ci siamo uniti per evitare i saccheggi. Questo ripeto spesso, ma sia da parte della borghesia di Bolzano sia da parte di quella anche di Bressanone. Ma e questa è una mia opinione, che è apparentemente moderato nella forma, invece nella sostanza il documento dei 17 articoli bressanonesi è radicale ed è consono alla mentalità e all'atteggiamento del Geismar, che confidava allora di ottenere, mediante un'azione responsabile, concessioni tali dal principe, laico e non più ecclesiastico, come egli auspicava, che la società tutta sarebbe stata rinnovata. Io mi fermerei per il momento qui, va bene, perché so che alcuni, come l'amico Summa, hanno senza dubbio delle obiezioni da farmi, e dopo continueremo eventualmente. Questo altrimenti dopo può darsi che non si concluda. È stato tirato in ballo, sì. Potrei dire sì alcune cose che... Secondo me la differenza particolare della città di Bressanone dipendeva da un fatto molto... Cioè, quella distinzione fra cittadini, non è tanto l'interno della città, non era tanto la distinzione fra cittadini e Imbolda, quanto era la distinzione che c'era tra i diversi abitanti, che era molto più complicata. Cioè i cittadini di Bressanone, quelli che abitavano a Bressanone, potevano dipendere o dalla corte vescovile, o dipendere dalla capitola del Duomo, o dipendere dalla, diciamo, oppure essere cittadini, dipendere dal giudice della città. C'erano tre livelli, diciamo, cioè tre tipi di giudizi, tre giudici e tre tipi di giustizia. Cioè all'interno della sua città c'erano degli abitanti che devono rispondere, cioè gli abitanti che, diciamo, erano più degni del vescovo rispondevano direttamente alla corte vescovile. Gli abitanti che erano sui beni, diciamo, lavoravano più al capitolo del Duomo, rispondevano direttamente al capitolo del Duomo. Gli abitanti che erano invece, diciamo, che non avevano nessun rapporto, diciamo, economico con nessuno di questi due, rispondevano a un giudice che era però anche questo eletto dal vescovo. Era eletto dal vescovo, però non era la stessa cosa che il consiglio aulico, diciamo, che il giudice che doveva amministrare, diciamo, i beni vescovili. Io penso che si rifaccia particolarmente, cioè, che la distinzione, cioè, che tutti siano cittadini di Bressanone, si rifaccia proprio a questo, cioè che si richieda che tutti dipendano dallo stesso, hanno gli stessi diritti, cioè che non ci siano all'interno della città tutti questi tre tipi di cittadini, se possiamo dire, questi tre tipi di abitanti, ma che tutti siano cittadini con diritto di eleggere. Mi rifaccio, vorrei dire ancora un'altra cosa, che per esempio anche durante la rivolta, no? Noi vediamo diverse, dei punti sembrano a un certo momento discordi, cioè, e questo ha fatto un inganno, io penso, anche il Mate, cioè a un certo momento alcuni abitanti di Bressanone dicono che loro sarebbero stati d'accordo con i contadini per aiutarli a saccheggiare le case dei preti e le case dei preti e diciamo il capitolo dell'uomo a tutti i nodi. Questi però anche dicono molto esplicitamente perché noi nel nostro quartiere, nel nostro quartiere, siamo anche noi contadini. E poi, secondo me, esisteva, cioè, all'interno della cittadinanza, appunto, no? Cioè, e poi dicono anche che loro, la Erbachheit, sta, diciamo, consigliandosi, sta parlando tra di loro. Qualcuno intende, sì, la Erbachheit, sì, cioè la si può dire, i cittadini più avvenuti, insomma, la borghesia cittadina sta facendo. Sarebbe i notabili italiani, ecco, i notabili, quelli che hanno avuto già nel passato in famiglia delle cariche cittadine, ecco, i notabili, quello che noi diciamo i notabili. Appunto, e questi notabili stavano invece facendo, complottando, diciamo, loro dicono, stanno consigliandosi, e noi non sappiamo che cosa essi dicono. Quindi c'era all'interno della città, si vede chiaramente che esistevano delle condizioni molto diverse. E questi che abitavano, cioè anche nelle città di Bressanone, alcuni che erano in realtà contadini, che erano in realtà i servitori, diciamo, i giudici, diciamo, di questo capitolo dell'uomo, del vescovo, eccetera, che non avevano questi diritti. E queste persone si uniscono alla rivolta, si uniscono volentieri, diciamo, alla condizione contadina, ma in realtà non è che siano due pari diverse, in realtà sono contadini e stessi, e lo dicono anche esplicitamente. Quindi io penso che ci sia una perfetta identità nella genesi della rivolta fra Bressanone, Bolzano e Merano, come in tutte le altre città. Cioè, noi troviamo una separazione netta fra quelli che sono, diciamo, le richieste contadine, o diciamo lo spirito contadino, che secondo me è dei contadini, non è tanto delle spelloite oppure dei, di quelli che hanno poche, insomma, del proletariato contadino, ma proprio dei contadini, delle proprie, e quelli che invece sono le richieste o quelli che hanno le aspirazioni o i desideri della borghesia cittadina, che naturalmente non veniva toccata, diciamo, tanto toccata dalla situazione del tempo. Io penso che finalmente è interessante vedere appunto questa differenza all'interno della città di Bressanone per poter capire e come effettivamente sia la tesi del Matrix, secondo cui appunto ci sia questa differenza tra Bressanone e le altre cose, e le altre città, non sia fondata, ci sarebbero altre cose da dire. Una cosa comunque, scusate, vorrei anche aggiungere, che è questa, per quanto riguarda il fatto del doganiere. Io ho anche provato una cosa che potrebbe essere senz'altro di appoggio a questa tesi, e cioè che il luogo dove si univa il consiglio del Geismar, il luogo dove venivano tenuti i beni saccheggiati, era proprio l'ufficio delle dogane, il palazzo delle dogane di Bressanone. Quindi, insomma, sembrerebbe strano come mai allora il consiglio viene tenuto nel palazzo della dogana, come mai, cioè, questo secondo me, insomma, dovrebbe essere un motivo. Volevo ancora dire una cosa, che per quanto riguarda la differenza che c'è tra Bressanone e gli altri posti e le altre località dell'Alto Adige, Tirolo, del Trentino, secondo me non esiste assolutamente nessuna differenza. Le parole dei rivoltosi, quello che loro stessi dicono, sono perfettamente identiche sia a Bressanone che negli altri posti, e c'è appunto soltanto questa differenza tra la borghesia cittadina e la popolazione contadina, e questa differenza esiste uguale in tutti in tutte le diverse cittadine, insomma in tutti i posti della regione. E il Geismar, intanto, secondo me, il suo consiglio rispecchia completamente il compromesso che si era andato formando nel corso della rivolta tra la borghesia cittadina e la popolazione contadina. Secondo il mio punto di vista, almeno esisteva, cioè, evidentemente loro credevano di poter ottenere dal principe alcune cose, quindi non erano affatto d'accordo con quei rivoltosi che invece avrebbero liberato, diciamo, attraverso una azione corrente, avrebbero messo direttamente i piedi del clero. Voi avete notato che ci sono due. Va bene, tesi che derivano dalla incertezza anche dei documenti, che possono essere collegati diversamente, quindi sollecito l'intervento di qualcuno il quale si veda meglio o opti, dico, per questa o per quella tesi. Io vorrei dire una cosa ancora, che nella grande storia del Geismar esiste un fatto in cui il Matrix spesso dice, beh, questa è l'unica cosa che è autentica del Geismar. Dice, il Geismar dice che bisogna essere, le mura delle città devono essere abbattute. E questo, secondo lui, se non ci devono essere le città, praticamente era una cosa autentica nel periodo del Geismar. E questo, secondo me, è non capire la radice del pensiero del Geismar. Perché? Perché la differenza tra città e campagna era anche uno dei motivi, diciamo, che stava alla base della rivolta contadina. Noi lo vediamo questo particolarmente proprio a Trento, e ma lo vediamo anche a Bolzano, anche a Lerano e anche a Bressanone. C'è questo antagonismo, diciamo, tra borghesia cittadina e campagna. La borghesia cittadina aveva alcuni diritti, come dicevo, che salvaguardava e che difendeva molto. E quindi a fare fallire la rivolta saranno il principe e la borghesia cittadina. E quindi nella grande forma del Geismar, a differenza degli articoli di Merano, il passaggio secondo me è soltanto questo, che si aboliscono il principe e la borghesia cittadina, perché non accettano questa terra libera che i contadini voliscono. Non so, questo è la... E io penso che anche quindi Bressanone ritorni, cioè sia inserita perfettamente in questo, cioè anche il Geismar stesso aveva un chiaro esempio anche del comportamento della terra del Bressanone, perché aveva avuto pochi contatti nel corso della rivolta, sono anche pochi contatti con le città come Bolzano, Lerano e Trento. prove da questi tutti, da questa tutti, io moderio, che vedo, che mi stai con il caso di questa situazione, e perché va, che è tanto meno, per tutti i momenti che sta fissa, per una end of the hospital, posso dire, dunque, questo è senz'altro una cosa, sì, no, ma questo lo riassunto, sì, sì. È stato un tipo di riassunto. Ah, sì. Se diceva appunto che il secondo Rainer, secondo preside Federic, appunto, gli aspetti 17 articoli rappresentano soltanto delle richieste limitate e concrete, no, di alcune diciamo, alcuni inconvenienti in cui andavano incontro con la collaborazione, quindi ovviamente rappresentano una richiesta moderata e non rappresentano una rottura, una rivoluzione, diciamo, se non c'è una rottura diciamo, con la tradizione non c'è veramente una spinta rivoluzionaria, cioè rappresentano un polo moderato. Io vorrei dire questo. Questi articoli, questi 17 articoli della città di Bressanone, effettivamente possono dare questa impressione. E mi rifaccio innanzitutto a quelli che sono, diciamo, appunto le parole di quelli che sono la stessa stella, cioè a quelle che erano le richieste invece dei rimanenti, diciamo, che i contadini dicono nei momenti casi della rivolta, cioè quello che dicevano quando veramente saccheggiavano. E loro dicevano cosa chiedevano? Chiedevano una terra libera, cioè chiedevano una terra senza. Cioè in cui praticamente venissero dati, resi di nuovo al principe tutte le cose di cui il principe era stato privato. Cioè doveva, il principe doveva essere quello che amministrava la propria terra attraverso i propri funzionari, senza inserirsi naturalmente però nelle questioni private, cioè praticamente una terra, appunto come dicono loro, una terra libera. C'è una differenza, sembra che ci sia, anzi c'è senz'altro una differenza grossa tra le due cose, però esiste anche una netta, diciamo, una unità di fondo, ed è questa secondo me. Cioè che quando si riferiscono, cioè questi articoli qui, si riferiscono a una certa situazione che è già una situazione di privilegio. Cioè la situazione, come poteva esistere una città di Bolzano o di Merano, era una situazione già di privilegio. Loro non erano soggetti affatto a quelle cose a cui erano soggetti le giudicature di campagna. Non avevano un signorotto locale che interveniva pesantemente nei loro fatti privati. Non avevano, diciamo, il giudice che era un, diciamo, delegato del signorotto locale che quindi faceva tutti gli interessi del signore della giudicatura. Quindi, praticamente, si riferisce già a un certo tipo di situazione che è una situazione di privilegio, che non esiste questa situazione appunto per le giudicature di campagna, quindi le giudicature di campagna devono chiedere altre cose, chiedono che appunto non si siano date più impegno queste giudicature. La città non può chiedere una cosa del genere perché le città non vengono date impegno. Però diciamo la sostanza è sempre quella, cioè il desiderio è uno, quello di auto-amministrare, cioè di avere un'amministrazione che dipenda unicamente dalla gente che vive sul posto. Cioè la gente che vive in una certa località, in una certa comunità, deve poter decidere liberamente sull'amministrazione della propria comunità e deve decidere anche sull'amministrazione della legge nella propria comunità. E questo è un secondo fattore importantissimo, perché sul fatto della, diciamo, sulla rottura che aveva portato la riforma, diciamo, di Massimiliano del 1492, era veramente una rottura notevolissima. No? E quindi essi vogliono assolutamente che questo venga colmato e di ritornare alla vecchia tradizione di, diciamo, di una legge che viene amministrata e dai propri, dai giudici e che rispetti, diciamo, le esigenze e la tradizione. Quindi secondo me si tratta delle stesse cose, cioè sono cose diverse, apparentemente diverse, perché la situazione qui è detta è una situazione diversa. Certamente se avessero parlato qui della giudicatura di Fie, avrebbero prima di tutto detto non vogliamo che la giudicatura sia data impegno, prima di tutto avrebbero detto non vogliamo che il giudice sia venga eletto sia un funzionario del signore della giudicatura. Non vogliamo che il signore della giudicatura abbia degli interessi economici locali. Ma, diciamo, riferito alla situazione di Bressanone, è lo stesso tipo di mentalità, cioè la mentalità di una comunità che si autoamministra e che ha una legge sua fondata sulla tradizione e che quindi praticamente si rifà lo spirito della società tirolese, della contea tirolese precedentemente alla rivolta cattolica. Secondo me è questo il punto, diciamo, la fondamentale comunanza che c'è tra i due due. Io sinceramente vedo una differenza enorme tra questo e il documento di Milano, quello che si è terminato per il libro. Innanzitutto è una differenza di tono. Una differenza di tono che è tanto più rilevabile in quanto proviene da ambienti come quelli della dieta di Milano che non sono ambienti letterari. E pertanto il tono ha una sua enorme validità perché rappresenta proprio una espressione di un sentimento, vorrei dire quasi inconcepibile, che si manifesta anche nello stesso stile, nella stessa forma in cui le richieste sono presentate. Poi la differenza fondamentale che io trovo tra questo documento e quello della dieta di Milano è questo qui, d'accordo, e il motivo comune che c'è, evidentemente nascono da una stessa situazione socio-economica e anche da una stessa situazione spirituale. Però nei 64 articoli della dieta di Merano c'è addirittura la proposta generale di un rinnovamento della società, sia della società civile, sia della società della sua organizzazione amministrativa e politica, sia anche una proposta di rinnovamento di un rivoluzionarismo e avanzato vero, enormemente anche per quanto riguarda proprio una riforma di quelli che sono i rapporti del popolo dei fedeli con la Chiesa istituzionale. E tutti quanti lo conoscono, lo dico soltanto per completare evidentemente il discorso, ma pensiamo a dove si richiede qui, proprio non ero qui localizzato nella redazione di un consiglio. Ma nella dieta di Merano non si richiede soltanto per una situazione locale, si richiede proprio come in via di principio la elezione degli amministratori. Nessuna terra abbia altro, va bene, che un sindaco eletto, va bene, vero, dagli appartenenti, sia anche per quanto riguarda la riforma della chiesa istituzionale, quasi con una proiezione nel futuro della elezione degli stessi parroci e degli stessi ministri di Dio da parte del popolo dei fedeli, non solo, anche sul piano della giustizia si richiede questo innovamento dell'amministrazione della giustizia. E, insomma, quello è un programma di natura politica e spirituale, vorrei dire completo, un programma generale. E differenti di tono e differenti anche avendo l'ampiezza del tipo. Ecco, questa è la mia modestissima impressione. Come si coglie esattamente nel segno? La differenza essenziale, insomma, la stessa differenza che intercorre esattamente, la stessa differenza che intercorre tra gli analoghi articoli di lamentele che sono state fatte numerose prima della rivolta del Vestito, durante la rivolta del Vestito e l'articolo di Milano. L'uno, solo una stesura di quelli che erano le cose più immediate della comunità. L'altra è una rielaborazione in cui vengono unificati alcuni concetti, in cui vengono, generalizzati alcuni principi. Però rimane, secondo me, rimane sempre un fatto che questo sia come tutti gli altri articoli pubblicati proprio nell'arte di provincia da Bosne, ci danno un quadro perfettamente analogo della situazione di Bologna, danno un quadro perfettamente analogo che ci spiegano come questi articoli di Milano, secondo me, non sono un programma rivoluzionario nel senso di dire una rifare una terra dei principi nuovi, ma proprio rivoluzionario nel senso opposto, cioè fare una terra in cui vengono riscoperti e valutati quelli che erano stati i principi vecchi, la tradizione passata, e da ritornare, e c'è un ritorno al fatto completo anche da parte dal punto di vista religioso, quindi la vera parola c'è un certo limite, perché dove vanno queste richieste si avanzano, per esempio, nei rapporti tra popolo dei fedeli e quindi istituzionalizzata, io non so se proprio si possa riferire al passato. Io non lo so, lo domando pure, ma io non so se ci si possa riferire al passato. Io so una cosa, no? Che nell'idea io non so se si possa parlare di un ritorno al passato, perché qualche cosa in cui io posso sentire l'influenza di un movimento riformatore, spero che religioso, che ormai l'influenza così proprio legata a quello che è il momento delle rivoluzioni religiose dell'Europa libera, è proprio il credo che ha qui. E concordo con quanto diceva la collega Cassari, che molto va bene, vero, è una rivoluzione che vuole restaurare il passato, ma su questo piano della chiesa istituzionale io veramente non mi domando scusa, ma non lo vedo. Ecco, e questa è una cosa che mi va, ma adesso io dire da voi, perché io non sono, l'ho detto prima, che ne consiglio di parlare di questo. No, tanto più va bene che il professor Corsini è molto umile, ha seguito anche delle, e guidato alcune tesi appunto sugli articoli di Salano, quindi la sua competenza, non dubbio. Esatto, osservato però che il Geismar, cioè il ritorno della tesi di Salano, sono contato in realtà del Geismar, nel Geismar anche la, il ritorno alla chiesa primitiva, la vera chiesa, Adesso domando pure del modo, voi capite, dopo c'è qualcuno che ha chiesto semplice rilievo, che noi stiamo adesso ponendo a fuoco uno dei motivi fondamentali, cioè quello dei riflessi tra Rinascimento e Rivoluzione, come è il titolo di un articolo uscito qualche mese fa di Heinrich Lutz di Vienna, va bene? Il mito delle origini, che è un mito senza dubbio rinascimentale, è anche il mito della Chiesa primitiva e ha sempre un aspetto polemico con la società del tempo. Heinrich Lutz tuttavia sottolinea di più la secolarizzazione, cioè la tendenza fondamentale di tutti questi movimenti, secondo lui, è la secolarizzazione, cioè si tende al passaggio, alla eliminazione del temporalismo della Chiesa. Difatti anche qui poi in questi articoli si insiste, va bene, non ci siano più beni, va bene, non ci sia l'assito ad opere pie, eventualmente se fosse fatta una donazione non debba rimanere alla Chiesa ma debba essere venduta. Una questione molto importante che tuttavia ci porta a campi e a orizzonti molto lontani. Qualcuno aveva chiesto qui, scuso, di intervenire. Io direi che la risposta migliore l'ha data già. Se vuole anche fare. Appunto si diceva, se si dipendeva da questo, dipendeva anche dal comportamento della Chiesa, cioè dall'acquisizione che aveva avuto appunto diciamo il temporalismo della Chiesa, eccetera, del suo modo da questa strada che aveva preso la Chiesa procedimenti, eccetera. Dunque, io volevo dire questo, che già c'è una c'è già la O'Kirn nel tutto il suo libro ma anche meglio ancora Doppler, nel libro appunto che parla della dieta di Bressanone, dice una cosa base che senza capire quella forse possono anche far intendere alcune cose. Lui dice: i contadini, riportando gli atti della dieta, della parola dei contadini, la cosa in cui si lamentavano di più era questa, che i sudditi che vivevano sui beni della Chiesa erano sottoposti a un onere maggiore, cioè avevano da pagare più tasse e avevano da avere più maggiore, diciamo, impegno di lavoro, di fatica. Poi che avevano una dipendenza personale molto maggiore. Perché? Perché infatti anche quelli che erano, per esempio, che non erano nella giudicatura vescovile, ma anche quelli che erano invece a Bolzano, nella trasmissione di beni del convento, che so io, dell'ordine teutonico, erano soggetti molto spesso al tribunale dell'ordine teutonico. Erano soggetti a questo tipo di amministrazione. Quindi il monastero, l'ordine religioso, era quello che offriveva di più la popolazione, che richiedeva i contributi maggiori, e non soltanto, ma quello che in virtù di antichi privilegi riusciva anche a strappare, riusciva a rompere quelle che erano le tradizioni stesse della terra. Insomma, nel 1404 la Landesordnung aveva detto che tutti i contadini dovevano essere sottoposti al loro giudice naturale, se la popolazione era sottoposta al giudice naturale. Ma invece questo non era stato attuato, perché quelli che vivevano in alcuni tipi di terre, per esempio anche vicino a Castelrosso, a Fie, eccetera, alcuni di questi contadini Maia di Fie rispondevano direttamente alla curia vescovile di Bressanone, al convento di Novacella. Questo fatto era veramente una cosa che loro non andava giù, E perciò dicono queste cose, queste istituzioni che non servono a niente, portando per opprimere, ci devono essere distrutte. Cioè, il discorso, io ho fatto soltanto un esempio molto banale, ma se durante la rivolta di Fiè, i contadini, la prima cosa che fanno è quella di rivolgersi contro il cappellano. Il cappellano, no, il cappellano, quello che dice la prima messa, non so, prima messa, no, cappellano, primissario, di Fiè. Bene. Io mi sono chiesto, c'è un motivo, io ho trovato nell'archivio di Santo di Bolzano un articolo in serie, io sarebbe un po', ecco, ma è diverso perché lì ha significato. C'era una collegiata che c'era? Nell'archivio di Santo di Bolzano c'è tutta una serie di lamentele contro il parroco di Fiesi, perché dicevano che questo parroco aveva aperto una rivetta di vino, una toccata, una cosa, il comportamento non ha. Però i contadini non si rivolgono contro il parroco, ma contro questo qui. L'ho chiesto, perché? Ho trovato negli articoli di lamentela, loro dicono il signore di Fiesi ha incamerato un bosco pubblico e l'ha dato in usufrutto a questo signore. E loro, quindi, alla propria argomento. Quindi è chiaro il rapporto. Cioè, insomma, a un certo momento se li prende la loro roba e la dà questo, sono loro ci rivolgono contro questo. Cioè, evidentemente esiste un motivo economico molto grave rispetto a questa posizione verso il clero, verso certe istituzioni, diciamo, no? Ecclesiastiche. Mi sembra che questo è da prendere anche in considerazione. Io pensavo che la chiesa ha fatto la professor Sena sulla questione della secolarizzazione. Credo che abbia un'importanza specialmente per i trentini. Infatti troviamo dall'esempio della rivolta del 1407, dove c'è la secolarizzazione del principato per fatti dell'infanzia di padre. E poi troviamo gli stessi presupposti nella rivolta del 1467, dalla quale deriva senz'altro anche quella del 25, perché è stata in certa maniera una popolazione che è stata nelle sue ricerche, dove i nostri contadini, almeno per quanto riguarda quelli della Val di Sole e della Val di Non, partono al grido non via a basso le tasse, che, ma viva il principe, cioè viva il conte del Diolo, di fondo, non il principe del Diolo, ma il principe del Diolo, cioè la separazione, diciamo, la soppressione del principato del Puglia per essere immessi a pieno diritto, quasi a persone, alla contea di questo regione, perché questo è il diritto dei popoli. Dall'altra parte c'era un funzionario che non aveva interessi locali. I quelli di Caldaro, quando verrà il 1500, non ricordo quando, la prima conversione della rivoluzione contadina, viene il Fleger, il nuovo Fleger, che invece ha ricevuto la giudicatura in peggio, dicono, ma questo signore, noi non vogliamo, non vogliamo che il Fleger abbia degli interessi locali, perché? Perché non accetta le carte di regola, non accetta, diciamo, cioè ha la giustizia delle sue mani per ottenere anche le cose che, tutte le cose che vuole, al di fuori, diciamo, del diritto della produzione. C'era questa differenza profonda tra le giudicature del Tirolo e quella invece del Trentino, dove questo tipo di mediazione è precedente, no? Dove chiaramente c'erano dei signori, no? Che vengono, i benefici vengono ottenuti e vengono dati a qualcuno che li poteva sfruttare come credeva lui. Aveva altri mezzi, e perciò loro vogliono vincere il Tirolo, secondo me, non era la figura del principe tanto più interessante, quanto era il fatto che effettivamente avevano questa attenzione alcuna. No, tanto più appunto lei ha accennato a quella 1477, che è un po' diversa tuttavia, perché l'appello al principe è fatto sì in antagonismo al vescovo principe, ma per il fatto che i contadini non possono più vendere, e la minaccia del principe, il vino, va bene, a Bolzano e al di là delle Alpi, quindi ci sono anche motivi contingenti. Adesso si entra un nuovo spirito, va bene, nel 1525, cioè questa libertà, questo accenno di tipo luterano che si estende, questo influsso di un movimento che è nuovo, è uno spirito nuovo nel, ecco, dobbiamo tener conto non soltanto appunto delle condizioni socio-economiche, ma anche di queste aspirazioni che sono diverse. Un tema che non abbiamo trattato, ma non so se sia il caso adesso, è quello di Bolzano, che su richiesta delle giudicature meridionali, ma anche di Siena, doveva essere a capo della rivolta, e invece la polizia cittadina sempre si esime da questo compito e rifiuta, diciamo così, di mettersi a capo, e anzi dice che ogni giudicatura deve comportarsi a suo modo, va bene? Cioè, a Bolzano la borghesia non vuole che il movimento si estenda e vuole mantenere assolutamente distinte le posizioni dei cittadini dalle posizioni invece delle giudicature di campagna. Su questo lei ha fatto tutto uno studio, direttamente in sintesi potrebbe anche illustrare. Sì, secondo me la tesi sarebbe un po' diversa, io penso che, io sono convinto, cioè, che questa posizione diversa di Bolzano sia la stessa posizione diversa che ha tomato Bersuglia. Cioè, non c'è una diversità tra Bolzano e Bersuglia. Cioè, secondo me la rivoluzione contadina non ha avuto una preparazione, cioè non è che sia stata, cioè c'erano delle cause molto forti e profonde che spingevano i contadini a rivoltarsi, però non c'era nessuno che avesse fatto una preparazione, nessuno che avesse ordinato un piano generale della rivolta, nessuno che dirigesse questa rivolta. Quindi Scoppia Bertanone si propaga nella provincia, ma senza appunto una direzione precisa. Cosa succede quando la rivoluzione scoppia a Bolzano? A Bolzano, quel giorno in cui vengono attaccati l'ordine teutonico e la carta degli ebrei, era il giorno di mercato. Quindi c'era dentro nella città di Bolzano un sacco di gente delle giudicature vicine. Questi abitanti delle giudicature vicine vedono quello che succede, sentono le parole dei rivoltori, cioè sentono che noi vogliamo dare a tutti una sana vita. Credono, obiettivamente, addirittura arrivano a pensare che sia stato il principe stesso a ordinare la rivolta, per poter ritornare in possesso dei beni a cui era stato privato. I quelli di Trento mandano gli ambasciatori a Bolzano dicendo, insomma, per quale motivo voi venite contro di noi? È stato il principe a dire questo. Si credeva addirittura che, a un certo momento, vediamo che ma, si rivolgono quelli di Trento. Ho provato in un altro lavoro la conferma che in una tesi, non in un lavoro pubblico. Ecco, io a Bolzano la cosa più interessante di Bolzano è questo, che c'è il verbale della giunta che è stata eletta dai rivoluzionari, cioè i rivoluzionari sono uniti, diciamo, i cittadini di Bolzano, cioè, quando dopo il saccheggio sono andati dai contadini che hanno saccheggiato l'ordine istruttore, e hanno chiesto Per quale motivo fate questo, no? E hanno risposto ai motivi, come dicevo prima, per una terra libera e principe. Dopodiché hanno detto, ma voi siete contro di noi oppure no? Se non siete contro di noi, dobbiamo unirci. E hanno fatto questo unione. Fatta questo unione, però, siccome nella giunta c'era una rappresentanza, metà era praticamente il comitato cittadino, e metà erano messe. È l'ultimo documento, va bene, che avete anche lì in quel fascicoletto. Sì, ma questo è soltanto, diciamo, al primo foglio sono 64 fogli, quindi è un po' difficile per riassumere in maniera. Qua è soltanto, diciamo, il primo, questo foglio partono le prime due passate, diciamo, di questo fascicolo di 64 fogli della giunta. Verbale della giunta rivoluzionaria. Io ho chiamato giunta rivoluzionaria perché è la giunta che i rivoluzionari insieme ai cittadini eleggono. Però forse sarebbe giusto chiamarlo giunta contro rivoluzionaria, perché come detto per evitare, diciamo, per reprimere la rivoluzione. No, non sono questi, sono ce l'ho di là. Sono estremamente interessante perché queste notizie che sono propagate nella legislatura vicina fanno sì che tutte le giudicature, invece di rivolgersi a Bressanone, dove effettivamente poteva essere il iniziatore, diciamo, della rivolta, si rivolgono a Bolzano. Quelli della Latino mandano i loro messi a Bolzano, quelli di Carmelo mandano un comune vicino a Trento, dice non me lo specificato, mandano i semi a Bolzano. Noi abbiamo preso possesso dei castelli, e delle case delle canoniche, eccetera. Adesso abbiamo finito i vostri ordini di far questo. Adesso che cosa dobbiamo fare ancora? Ora Bolzano ha installato questa giunta rivoluzionaria, tra virgolette, e dice loro, no, dice, noi non vogliamo fare questo, noi adesso siamo messi in impresa finché non succedono ulteriori disordini e voi dovete fare la stessa cosa, dobbiamo riunirci per dire quelle che sono le nostre richieste da costruire, però il resto deve essere messo a bando. Cioè, c'è tutta questa posizione, per cui Bretanone, secondo me, non è che sia. Non sono neanche questi due aspetti, giunta rivoluzionaria di Bolzano, giunta rivoluzionaria di Bretanone, sono tutti e due basate sulla stessa, diciamo, tipo di compromesso. Un compromesso tra la popolazione contadina e la popolazione e la borghesia cittadina. L'unica differenza è questa. Nella giunta rivoluzionaria di Bretanone ci sono 13 giudicatori di campagna e la città di Bretanone, ognuno dei quali aveva, secondo i documenti che ho trovato appunto a Civi di Bolzano, ognuno dei quali aveva due rappresentanti, quindi i rappresentanti delle giudicature di campagna avevano un peso maggiore, però la politica che offrono è proporzionata, perché il peso dei cittadini assume un'importanza anche lì fondamentale, cioè anche lì c'è la fiducia del principe e si pensa di fare quasi seriamente di voler mantenere la vita fede principe, che con il quello che volevo dire per concludere, no, è che comunque non è che si deve pensare che l'atteggiamento appunto di Bretanone fosse diverso da quelli di Bolzano. Quelli di Bolzano dicono che loro alla fine, no? Noi vogliamo una terra libera e presentiamo questa terra libera al principe e il principe ci deve dire se lui accetta questa terra o no. Il primo momento, cioè, deve essere fatta la richiesta e questo è il momento dell'articolo di Merano. Cioè, nell'articolo di Merano vengono fatte le richieste al principe. Il principe rifiuta la richiesta e allora viene la Landesforschung des Reichs. Perché il principe non ha dimostrato con i suoi atti di non voler accettare questa. L'unica differenza nella Landesforschung des Reichs, lo ripeto, è questa, che lui sapeva anche l'atteggiamento, la partecipazione, la cosa, quello che avevano avuto la borghesia cittadina, diciamo, la parte che la borghesia cittadina ha avuto nel rifiuto, diciamo, di questo tipo di nuovo ordinamento. Perciò rifiuta anche la città. Però, dico, tutto questo rivolgersi a. Sta interessante appunto il fatto che l'assalimento della rivolta, se si può dire così, dipende anche in parte da questa mancanza di organizzazione, dal fatto che tutti si rivolgono a Bolzano e tutti da Bolzano dicevano le parole sbagliate in un certo senso, quantomeno forse le parole, diciamo, più meditatrici, no? E quindi praticamente dopo il primo momento di atti, diciamo, di aperta violenza, dopo tutto rimane tranquillo. Gli stessi nobili addirittura manderanno degli ambasciatori a Bolzano dicendo: noi abbiamo fatto, abbiamo seduto il nostro castello ai nostri giudici, perché come sono gli ordini, no, che voi avete dato, cosa adesso noi siamo a posto con voi, siamo a posto con diciamo, noi tutti ci dichiariamo fedeli, insomma, a questo giudice, è veramente uno spirito molto strano quello che esce fuori dalla lettura di questi documenti che si trovano appunto in questo verbale di Bolzano. È una rivoluzione quasi che, appunto, come dico, veniva considerata come una qualche cosa che voleva restituire al principe le cose che stavano a lui, però naturalmente in una certa forma di impegno costituzionale, cioè noi abbiamo dei diritti, il principe ha dei diritti, noi rispettiamo i diritti del principe, il principe deve rispettare. Allora, convocando, mi ricordo più sempre il troppo, ma la dieta di Merano è interessante, perché la dieta di Merano è stata convocata, la decisione di fare la dieta di Merano è stata presa a Bolzano il giorno 15 di maggio dai delegati di Bolzano, di Merano, di Caldaro e di altre nazioni di giudicatore vicino. Quindi è stata presa a Bolzano. È stata fatta a Merano, perché a Merano era la sede della vecchia sede della dieta, insomma, la vecchia sede della la concordanza con gli argomenti che si trovano nella serie di Brenta e con la serie di Bolzano, c'è la concordanza dei numeri, del termine, di quello che si è detto, eccetera. Sì, anche dalle valli, anche dalla valle, per esempio, vicino a quello che si chiama la valle del Sur, cioè comunque dalla valle di Nord, comunque da alcuni vicino a Trento, comunque da Metro Corona. Sono venuti da non so dove vado, ma la Bolzano sì. Ma L'atteggiamento di Ferdinando è sempre equivoco, perché tenta anzitutto di fare in modo che la dieta, cosiddetta dieta contadina di Milano, non abbia luogo. Poi, nell'impossibilità, manda i suoi delegati anzitutto in Valsisteria perché abbiano l'appoggio dei rappresentanti locali e di fatti passano dalla parte appunto dei delegati di Ferdinando. E poi anche in seguito egli si mantiene sempre in un atteggiamento equivoco e alla fine a buon gioco. E sono soltanto Geismayr e quelli della Val del Bisarco che, e poi anche alcuni della Val Chiusana che si oppongono a questo atteggiamento. Certamente, professore, c'è anche un motivo molto preciso perché di queste diverse reazioni. Le giudicature, dove più forte era l'oppressione attraverso il nuovo locale, ovviamente la giudicatura aveva avuto un'oppressione maggiore, oppure le giudicature che dove c'era il vescovo, dove c'era l'oppressione della nobiltà, curiale, proprio quelle giudicature non possono accettare di ottenere alcune cose, minori. Loro devono assolutamente assicurarsi che venga una cosa venga fatta, che vengano allontanati quelli che sono i principali aspetti del loro contesto. Mentre per gli altri invece no, poteva anche accettarsi una linea di contesto per loro che erano accettati. E quindi insomma c'è questa divisione, poi dopo me lei questa rivolta tra questi diversi discorsi, secondo me. In ogni modo avete inteso, va bene, che ci sono due posizioni diverse. Secondo una, che è anche la mia opinione, è che Brezzanone abbia fatto caso a sé, va bene, sta a sé, che è anche un po' l'opinione del Masek, anche se egli poi dà una spiegazione del tutto in chiave marxista e quindi la sua terminologia è da post-rivoluzione industriale, va bene, e non tiene conto invece della situazione invece del tempo. E invece c'è un'altra tesi secondo la quale, va bene, la borghesia di Brezzanone si muove come quella di Bolzano e quindi c'è una prima fase moderata che è sia della borghesia cittadina di Brezzanone come quella di Bolzano, come quella di Milano e quella di Trento e un'altra invece che si manifesta in secondo momento con la Landesordnung di Geismayr. A me sarebbe tuttavia che anche il dottor Riedmann esprimette la sua opinione sull'argomento, e che è il dottor Rich Während des 19. Jahrhunderts verwendet als Stadt Land Tirol genau in der Bürger in Augen der Einheimischen betrachten? Oder was stellt man sich darunter vor? Ich stelle konkret darunter Geismeier für eine Landesordnung für das Gebiet von Bringen bis nach Buchstein und wie weit geschaffen wird, wo keine Rücksicht mehr genommen wird auf die staatsrechtlich ganz verschiedene Stellungen zwischen den Hochstiftsterritorien und den tirolischen Landesterritorien. Gehen wir das einfach hinweg. Scusa, sul fatto, cioè, se, a che cosa si rivolgessero questi articoli? Cioè, si parla di una terra, no? Cioè, si fa riferimento a una regione, no? un territorio, una provincia. Si riferisce, si fa questo riferimento si fa riferimento al Principato Vescovile, si fa riferimento alla provincia tirolese generale, diciamo, come si va a questo. Come detto, si può fare questo passaggio? Cioè, perché anche nell'Andesburg di Geismar si fa un riferimento appunto a una terra, a una provincia generale. Cioè, tu che cosa si deve intendere per questa provincia? Secondo me, se posso esprimere un'opinione, è questa, che ci sono due indicazioni precise in questo senso. E cioè, la prima indicazione molto precisa è quella che dà lo stesso Geismar. Cioè, il Geismar durante la rivoluzione contadina, cioè prima ancora della dieta di Innsbruck e di Merano, lui chiamava se stesso come amministratore dei beni del principe, ma dei beni del principe del Tirolo. E lui fa anche un rendiconto alla fine del suo governo, alla fine della sua vita rivoluzionaria. Lui fa un Reichen, un rendiconto di quello che lui ha amministrato, i beni del principe. Quindi è chiaro che lui pensava di fare parte di un. Della provincia tirolese, della contea tirolese. Cioè lui pensava che il territorio di Bertanone facesse parte della contea tirolese. Come poteva derivare, da questo poteva derivare questa idea? Io penso che una parte importante possa aver avuto il livello degli undici. Ecco, esatto. Io penso che il livello degli undici, costringendo quelli del Principato Vescovile di Bertanone e del Principato Vescovile di Trento, in certo senso, a contribuire alla difesa del territorio. Si faceva in realtà fare parte, cioè faceva il principe del Tirolo, non era più, diciamo, soltanto il protettore, ma era proprio il vero e proprio signore, era quello che difendeva anche proprio perché aveva il governo vero e proprio in un certo senso, perché aveva la supremazia in tutta la provincia. Io penso che nel livello dell'Undici sia la radice sia della contentezza in un certo senso che possono aver avuto anche i giudici della Principato per cui del Bertanone, per esempio di Trento, perché i diretti sono andati specialmente dopo la guerra con Venezia a delle tappe piuttosto pesanti che si aggiungevano già le cattive condizioni che loro soffrivano. Però nel contempo loro dicevano: noi paghiamo le tasse al principe, vogliamo anche avere godere degli stessi diritti di cui godono gli altri, sudditi del principe stesso. Noi vogliamo essere equiparati non soltanto nei doveri, ma anche dei diritti a tutti gli altri, ci sentiamo quindi parte di questo, cioè vogliamo essere parte di questa terra. Io penso che sia in questo da intendersi. Io penso che uno dei motivi per cui la rivolta può essere domata, in un certo senso, è stato anche proprio questo, questa mossa politica di Ferdinando, cioè di dire amministro non ha, diciamo, secolarizzato il Principato del Friuli di Bertanone o di Trento, però ha quantomeno, diciamo, concesso a quelli di Bertanone di essere momentaneamente amministrati da un suo ufficiale, da un suo delegato, e questo poteva almeno accontentare una certa parte, poteva almeno, diciamo, rompere l'unità della richiesta dei rivoluzionari. Non so, comunque dico, sarebbe forse senz'altro interessante fare un'indagine più approfondita, però io da quello che so io, come dico, è chiaro una cosa, che Geismar diceva di essere l'amministratore dei beni del principe del Tirolo. E lui fa questo rendiconto è stato discusso alla dieta provinciale di Innsbruck, il rendiconto che ha fatto. Quindi è chiaro, insomma, che se non altro lui pensava di essere in quel momento quasi, si considerava un funzionario quasi eletto del principe, si considerava. E secondo me l'unico avanzo logico è quello del livello del 2011, non ne vedrei altri, non so. Il livello del 2011 è fatto con, posso dire, No, poi il professor Stella tutto il suo intervento racchiude è stato messo il dito giusto dei momenti più dedicati anche della storia e dell'Ucraina, vero che poi Riedmann, vedo che la scienza, vero, ne abbiamo parlato anche in altra scienza di questo. Si è creata una situazione estremamente interessante, proprio a livello degli undici e dell'undici, e proprio per questa motivazione si data da Sinozuma. E ci sono creati due piani, un piano istituzionale e politico per cui Principato di Bresciano, Principato di Trento e il Contea del Tirolo erano tre statuetti feudali, però formalmente divisi, indipendenti l'uno dall'altro, però fino al momento in cui c'è stato poi il fatto napoleonico e poi successivo il 1720. Però, al di là di questo piano istituzionale, statuale direi, era di origine giuridica, si è creata una situazione politica e anche di convincimento delle popolazioni, per cui, pur essendo fretta per essere feudali diversi, in realtà erano considerati tutti quanti facenti parte del bando di Roma. Questa è stata poi l'origine anche di molte questioni successive che hanno portato poi, nel secolo XIX, specialmente alle altre però, evoluzioni. Ciò che ne avevamo parlato proprio a Vienna, no? A proposito. Quindi proprio nella faccio di salire a livello del 1920, più che al diritto di avvocatura. Il diritto di avvocatura all'epoca dei Mainardi aveva lasciato in sostanza più distinti i preorganismi feudali, mentre all'interno del municipio questo obbligo di contribuire alla difesa, che poi viene anche attraverso monetizzata, perché questa è interessante, viene monetizzata, questa è praticamente creata una forma di obbligo di contribuzione però all'Anda Tirol, e beh, anche per scelte di anche Salisburgo e anche altri. È molto interessante, questo è il punto focale direi proprio della storia di questi nostri paesi. Ecco la cosa. Grazie, vorrei dare qualche intermetto a te. Principale. Che questo testo principale si riferisce al congresso che intende il principe della provincia o il principe vescovile. Il principe vescovile viene chiamato con un altro termine, se posso prendere gli altri documenti, c'è una differenza nella denominazione. Tra principe vescovo viene adoperato con tre, sono tre abbreviazioni per il principe vescovo, adesso non mi ricordo esattamente, però nel principe vescovo sono tre abbreviazioni. Invece nella quindi se vuole tanto lei no. Avete inteso intanto che sono ricerche che stanno facendosi, che non sono assolutamente concluse. Anche quello che viene pubblicato continuamente, ad esempio nell'ultimo CERN, va bene, c'è un articolo di Lani, che è un contributo, non conoscevo già dal modo questo documento, e pensavo di utilizzarlo adesso in un saggio che mi è stato chiesto per l'Accademia dei Lincei sugli ultimi documenti appunto strettamente notarili di Padova, e se avessimo avuto il tempo la mia intenzione sarebbe stato appunto anche di vedere alcuni aspetti che possono essere illuminanti. Rimane ad ogni modo fondamentale quell'accenno che è stato fatto da Bitting, va bene, dell'esistenza di una Landesordnung del 1525. Se in effetti esistesse questa Landesordnung, sarebbe la tradizione che ci manca per sciogliere tanti dubbi che abbiamo, perché c'è un salto effettivamente tra la Landesordnung di tra gli articoli di Nerano e la Landesordnung di Weismar, che è veramente di la proposta di una società nuova, ecco, noi diciamo, è la Landesordnung di Geismayr. Quella invece che mi sembra che sia appena appena, ma col senno di poi che abbiamo, va bene, lumeggiata nei 64 articoli di Nerano, che possono essere anche quelli interpretati in modi diversi, va bene, o in senso radicale, o in senso invece soltanto di omaggio al principe territoriale. Stava dicendo, scusi, va bene, che... Dicevo che c'è una differenza, no, tra le aggregazioni. L'aggregazione per il principe di Tirolo è FD, no? Principe di Francesca, mentre invece per il principe vescovo è F, cioè EF e GD, no? Oire Principe Nale. Quindi praticamente c'è una differenza sostanziale nel modo di rivolgersi all'uno e nel modo di rivolgersi all'altro. E questo è anche questo. Nella stessa lettera, che io appunto si è trovato in trattamenti di della città di Brunico, che comunque io non ho ancora trattato tanto così il testo, forse molto velocemente, ma senza ancora dare una sistemata, quindi non apprende niente su questo. Quindi comunque cioè, appunto, si rivolgono alle due sintesi, no? E appunto si vede chiaramente questa differenza. Il mio ultimo invito è a tutti, va bene, e anticipo anche a me, va bene, questo qui. La scienza, come voi sapete, è qualcosa che ci interessa a tutti, e è un campo che va estirpato da tutti, e ormai non è possibile fare questi studi se non in Egitto, perché storia e natura, come è il tema che adesso dibattiamo nella metodologia, ma poi quanti aspetti della storia sono univoci e devono essere trattati globalmente. Il professor Capitani diceva sempre che noi della storia abbiamo soltanto una visione limitata nel tempo e nello spazio. D'altra parte c'è l'esigenza, messa in luce dalla scuola francese, che soltanto in un lungo spazio di tempo noi, la longa direi, no, noi possiamo cogliere i fenomeni storici. C'è senza dubbio oggi l'esigenza, come si dice, di una storia totale, che veda i diversi aspetti non separati l'uno dall'altro, ma invece continuamente collegati. E sotto l'aspetto quantitativo, va bene, in chiave sociologica, e sotto l'aspetto qualitativo, che noi chiamiamo più storico. Ormai io penso che la ricerca dello studioso singolo a sé stante chiusa, quell'epoca sia finita, soltanto in Egitto, e in Egitto non intendo come qui, va bene, con l'apporto della grande tradizione austriaca e tedesca e con quella italiana ed estendendo ad altri apporti, sia possibile giungere a conquiste effettive di una storia, scusate una citazione che viene letta spontaneamente di Tucidide, una storia che sia che valga per sempre. Ma è una storia questa che si tocca nell'intimo ed è una storia specialmente di valore, storia della nostra civiltà, ma che ormai è la civiltà di tutti gli uomini. Grazie. Oltre alla fiatola, l'ultima parte, ma in modo. Thank you. Thank you.